Tempo di Sport con Carlo Genta. Da un punto di vista della dirigenza mi sentirei più in imbarazzo nei confronti dei miei azionisti, dicendo ho dato un contratto in bianco a chi che sia e hanno messo la cifra che volevano, allora una serie di voi mi vengono a riprendere e mi dice non mi sembra il modo di gestire la situazione. Credo che quello che dicevo prima, ad Alessandro abbiamo tanto, abbiamo qui la persona che ha stilato il primo contratto di Alessandro, che è il presidente Boniperti. Io ho avuto la fortuna di siglare l'ultimo e credo che dal presidente Boniperti a me c'è una storia, un amore infinito di Alessandro per i colori bianconeri. Da quel punto di vista lì credo che poi la decisione di come gestiamo il contratto sia meglio gestire noi le cifre invece che darle a terzi. Giorgio De Luca in redazione per questa puntata di A Tempo di Sport, Paolo Correoni in regia. Ed io, è da quando ho sentito queste parole di Agnelli, del presidente della Juventus, che muoio la voglia di parlarne con Andrea Zorzi. Oltre che con voi, 800 24 00 24, ci mancherebbe altro. Ben trovati. Ciao. Pensavo fossi un po' più juventino dopo queste parole. No. Io? Sì, no. No, fossi un po' più juventino e quindi apprezzando in qualche modo questa modalità, magari discutibile, ma che tocca un tema di quelli non trascurabili nei rapporti tra società e grandi campioni, ti sentissi allora, più vicino. Il discorso è questo: non è un giocatore di calcio Alessandro Del Piero, è un simbolo della Juventus e della juventinità. Allora, gli è necessario garantirgli il vitalizio, tenerlo quindi sotto contratto prima come giocatore fino a quando lui vorrà e poi come dirigente fino a quando lui vorrà, vita naturale durante, oppure fare la scelta di dire anche unilateralmente, perché mi ha sorpreso in questa vicenda, Andrea, che non fosse stata una dichiarazione congiunta ma una presa di posizione unilaterale di Agnelli. Questo è corretto, dal punto di vista della comunicazione è corretto. Se avessero potuto fare una bella conferenza stampa insieme nel dire allora, Del Piero è il nostro simbolo negli ultimi 18-19 anni e però abbiamo deciso che per il bene di entrambi dichiariamo quello che accadrà a fine anno, era perfetto. O non ci sono riusciti e quindi Del Piero non ha accettato, io questo non lo so. O Agnelli ha deciso che, siccome una certa possibilità, decido io unilateralmente, visto che i contratti poi deve firmarli lui, ma in ogni caso mi sembra che sia un segnale interessante del fatto che di vitalizio non si può e non si deve parlare. Questo nulla ha a che fare con l'importanza che un grande atleta ha avuto nella storia di una società sportiva. Sicuro. Ma credo che, se guardato in modo responsabile, sia un vantaggio per entrambi, per la società, che non deve fare i conti con un simbolo che scatena gli umori della gente, dei tifosi, e anche per il giocatore prendersi una pausa in cui è finita la relazione società-giocatore. Cosa può diventare? Magari se c'è un bel ruolo da dirigente, da osservatore, da allenatore, può accadere che nel corso di un anno, due anni, le strade tornino ad essere... Ma senza obblighi. Bravo. Mi pare che questo sia il senso della parola. Non è obbligatorio. Credo che la tua posizione sia discretamente impopolare, Adesso sì, lo scopriamo magari anche con le telefonate 800 24 00 24, perché molti dicono no, la bandiera allora deve stare ripiantata da quella di Maldini al Milan, guarda cosa hanno fatto a Maldini, l'hanno cacciato via, bandiera. Rivera l'hanno cacciato via, Mazzola l'hanno cacciato via, Antognoni l'hanno cacciato via, insomma è una casistica, lunga, però credo che la società debba poter dire, debba essere libera di dire un giocatore ormai avanti con gli anni e ingombrante per l'opinione pubblica, per lo spogliatoio, per gli allenatori, per i tifosi. Guarda, facciamo pulizia, però, una parola brutta. Perdona. Facciamo chiarezza. Chiediamolo anche ai radioascoltatori. Sì. Prendiamo i due casi agli antipodi. La Juve si fa dei nemici perché dice il nostro simbolo non giocherà più con noi il prossimo anno. La Roma non solo non fa questo, ma addirittura la vecchia società mette rinnova un capio al collo del, che poi può essere un capio società, però insomma tu avrai ad acquisire una società sapendo che Totti ha un contratto lunghissimo da giocatore molto pesante, a differenza di quello di Del Piero, no? Del Piero chiama 1 milione di euro l'anno, sono 2 e 2 compreso tutto quanto. Il contratto di Totti è molto più pesante. Mettiamoci nei panni di chi deve valutare le scelte della società, in questo caso Juventus e Roma. Io, se devo dire, mi pare che la Juve provi a fare il suo mestiere nel modo migliore possibile. Mi pare che la Roma si sia trovata volutamente o per forza maggiore con una situazione complicata, perché a Roma basta criticare Totti per scatenare dei putiferi. L'allenatore Enrique, se per caso non lo fa giocare, è un problemone. Allora dobbiamo ricordarci che i grandi simboli, se sono bravi e giocano bene, sono la benzina della squadra. ma se no diventano delle ancore, esatto, dei pesi che sono difficilissimi da sopportare. Però vedi come è molto difficile trovare uno di questi simboli che faccia il passo indietro per primo, no? È sempre la società, in questo caso la Juventus, non succede quasi mai che uno di questi giocatori esca a dire non, basta, mi tiro indietro, non gioco più. Dici davvero, non c'è nessuno dei grandi? Allora, è raro. È abbastanza raro che insomma Zidane che... cosa ha fatto? È andato a Madrid? Zidane è andato a Madrid perché la Juventus conveniva venderlo, l'ha venduto per molti soldi eccetera. Però qui sono storie diverse, Però è tornato però a Madrid, vedi che anche Paolo Maldini ci ha messo un po', secondo me anche un po' troppo, prima di dire smetto, e la società era quasi non ti dico costretta, però era caldamente invitata dall'opinione pubblica a rinnovare quel contratto. Ma non c'è dubbio che sia una posizione molto scomoda, perché poi si richiamano le bandiere quando ci fa comodo, talvolta si criticano i giocatori che non giocano più così bene anche se hanno grande esperienza, e quindi questa opinione nei confronti delle bandiere andrebbe un pochettino approfondita. Però io credo che se avessero fatto una bella operazione congiunta sarebbero stati perfetti, ne usciva a testa alta. Invece così Del Piero ha detto a Striscia Notizie, uniche dichiarazioni a Staffelli: il presidente mi ha ricordato in anticipo la scadenza del mio contratto, con il sorrisetto, dichiarazione anche un po' sibillina se vogliamo. Occorre dire però che negli ultimi anni, leggevo in questi giorni, quando Capello non lo faceva giocare e i rapporti erano tesissimi tra lui e l'allenatore, non si è mai fatto scappare una dichiarazione Del Piero che fosse criticabile. Sì, è uno molto attento. Forse è molto attento anche ai suoi interessi, ci mancherebbe altro, non è che lo fa, però è molto molto bravo in questo senso. Evidentemente vanno fatti i complimenti anche a Del Piero. Certo che col Tapiro è stato piuttosto abile, aveva un bel sorriso e con Staffelli hanno fatto un bel duetto. Tanto già un paio di messaggi molto interessanti. Gianni da Bergamo che è già in linea. La domanda è, scrive un ascoltatore, serve la bandiera? Sono ancora i tempi della bandiera? Secondo me no, non sono più i tempi della bandiera, è inutile stare a fare... Cioè la bandiera sì, se è funzionale, se deve essere sopportata in qualche maniera, allora no. Credo che anche le bandiere debbano fare i conti con un aggiornamento dei tempi, e quindi la vita in cui tu nasci in una società, cresci in quella società e finisci in quella società non siano proponibili con l'attuale situazione più in generale. Dopodiché il simbolo, inteso non come che rimane sempre lì nel bene o nel male, ma l'idea di uno che vuole veramente bene alla società, questo è il senso della bandiera. Qualcuno che, qualche volta per questioni economiche, ma non solo per quelle, sia sinceramente attaccato, certo, ai colori della maglia, di questo non c'è bisogno. C'è vitale bisogno, certo. E ma allora tu dici, uno di questi potrebbe anche dire non servo più, forse qui sono d'ingombro, forse creo degli equivoci, creo delle pressioni eccessive, metto in difficoltà l'allenatore in un momento di ricostruzione, benissimo, mi tolgo e guardo dall'esterno facendo il tifo. Parliamone, cioè, anche questo, parliamone un pochettino, cosa ne pensate? Cioè, visto che non è, nessuno di loro è stupido, sa che mettere in campo o non mettere in campo un grande giocatore è una scelta più complicata per Conte e per tutti, e allora forse parlarne anche potrebbe... Anche per quelli prima, che sono finiti a bagno, da Ranieri in poi, da Ranieri a Deschamps, a Ciro Ferrara, eccetera, eccetera. Comunque, sulle bandiere, guarda, secondo me, se la bandiera non è quel giocatore come ai vecchi tempi, che cresce, nasce e muore, ma è l'idea di qualcuno che ti dimostra chiaramente che vuole bene, che si sente protetto, in quella società c'è molto bisogno di queste bandiere. E adesso parliamo con la bocca piena, perché Marta Cagnola compie gli anni, ci ha portato la torta nel break. Vi tocca mangiare la torta, e noi ne chiediamo d'imperio un'altra fetta, facendo gli auguri a Marta Cagnola. Questo di Paolo da Losanna, da Juventino, 100% d'accordo con Zorzi. Del Piero ha fatto la storia della Juve, ma non potrà per ovvie ragioni anagrafiche farne il futuro. Questo scrive un ascoltatore da Losanna, per l'appunto, dall'estero. Gianni non è dall'estero, ma è da Bergamo. Buongiorno. Buongiorno, dottor Genta. Buongiorno anche a Zorzi, grande. Buon compleanno alla sua collega. Marco Spagnola, certo. Esatto. Beh, da Juventino io ho preso dalla vostra radio, in considerazione del comunicato dato dal presidente Agnelli, appunto, della scelta di non rinnovare il contratto ad Alessandro Del Piero, ed è stato un colpo per uno che considera Alessandro Del Piero una bandiera, evidentemente, un leader ed un simbolo per la Juventus. però non ragionando di pancia, la scelta tecnica secondo me ci sta, e concordo con Zorzi sui termini poi e sui metodi utilizzati dalla società. C'è da considerare, e la vostra radio ci insegna da questo punto di vista, che una società quotata in borsa, se avesse anticipato una notizia del genere per mezzo della stampa o dei media, veramente avrebbe avuto anche un riscontro probabilmente sul valore azionario e quant'altro del titolo, per cui nessun altro mezzo migliore se non l'assemblea probabilmente dei soci. Sì. Certo, sorprende i giorni d'oggi quando si parlano dei casi Totti, dei casi simbolo delle altre squadre, che le società comunicano certe scelte con questi strumenti, però secondo me, a mente serena e lucidamente, nulla da dire sull'atteggiamento della società. Intervento ineccepibile. Assolutamente. No, infatti, anzi, anche molto felice di non essere sommerso o sommersi da coloro invece che hanno posizioni diverse dalle nostre. Boh, poi ce ne tanti. Da romanista preferisco avere qualche punto in meno con Totti in campo piuttosto che più punti con Totti fuori, scrive Massimo. Forse. Vado avanti a mangiare la torta mentre forse sentiamo Enzo da Bergamo. Quando Totti però giocava male, nelle radio romane di cui spesso si parla, non è che fossero molto leggeri o buoni con il Totti che non giocava bene. Quindi, insomma, io credo che alla fine non si possa dimenticare che l'obiettivo di ogni squadra è giocare nel modo migliore possibile e fare anche un sacco di punti. Questo non è un elogio, che l'importante è vincere e basta. Però per quanto riguarda Totti, non c'è dubbio che quello giocatore ha un peso specifico sulla Roma come nessun altro giocatore in nessun altro club del mondo. Del Piero sta la Juve come Totti sta la Roma, ma dove sono i tifosi juventini? Se qualcuno della Roma società dicesse qualcosa del genere di Totti, rischierebbe il linciaggio. Un torinese romanista scrive questo messaggio. Forse uno dei limiti della Roma. Sì, sì, lo è, lo è certamente. Enzo da Pesaro, buonasera. Buonasera, buonasera. Piccola premessa, io non sono juventino, ma tipo un'altra squadra, tipo il Milan. Sono rimasto assolutamente esterrefatto dal comunicato e dalle cose che ha detto Andrea Agnelli. Una cosa veramente terribile. Lui ha distrutto con quel comunicato gli ultimi anni di storia di un campione, che uno dei più grandi campioni che la Juve ha mai avuto. Ma siamo matti a un comunicato di questo tipo? No, comunicato, quando l'ha detto, non è stato un comunicato. L'ha detto all'Assemblea degli Azionisti. Esatto, ancora peggio da questo punto di vista. Dico, ma non è riuscito a organizzare una conferenza congiunta con il suo campione? Ma allora sta zitto, lo dice a fine stagione. Del Piero è uomo che dà problemi quando sta in panchina? Non li ha mai dati. Guardi, Enzo, questa è una domanda che mi sono fatto anch'io. Perché? Cioè, perché questa uscita? Perché a metà ottobre? Perché? La dirigenza della Juve ha perso ogni stile in questa cosa. È una cosa terribile quella che ha fatto. È una cosa veramente terribile. Forse è stato un giocatore, come dire, che ogni volta vuole entrare in campo, ma non è così. Chi conosce la storia di Del Piero, l'ha visto negli ultimi anni, ha accettato le panchine da tutti gli allenatori e non ha mai detto niente. Anzi, quando lo chiamavano a entrare in campo a metà partita, dava sempre il massimo e a volte era anche decisivo. E allora perché devi dire un anno prima che Piero non sarà più però partita? Enzo, mi perdoni, normale, cioè come dovrebbe fare qualunque giocatore di qualunque sport, cioè ti pago per giocare, se devi entrare entri, se no stai in panchina, non è necessario che facci i comizi. Una domanda anch'io per Enzo, nel senso che tra l'altro nessuno ha mai accusato Del Piero di non essere stato super corretto e di aver reagito positivamente anche in situazioni molto difficili. La domanda è: era quindi scontato che Del Piero continuasse a giocare alla Juve solo perché si è comportato bene e perché è un simbolo, oppure è comunque possibile nel mercato fare scelte diverse e quindi rinunciare a Del Piero come giocatore? No, ma mi scusi, questa cosa qua è possibile, però quello che lui ha tolto a Del Piero la possibilità di annunciare lui ai tifosi che smetteva di giocare con la Juve. Questo il signor Andrea Agnelli a Del Piero ha tolto, ed è una cosa terribile quella che ha fatto, è una cosa veramente terribile. Quindi la critica è sulle modalità, non tanto sulla sostanza, sulle modalità. No, sulla sostanza non c'entra niente, la sostanza, perché Del Piero poteva far giocare o non far giocare, rinnovargli il contratto o meno, ma il modo con cui l'ha fatto è un modo che veramente secondo me è inqualificabile. È veramente inqualificabile. Vabbè. E poi la decisione quando lasciare la Juve a un campione come Del Piero la deve lasciare dire a lui, non può dirla il signor Andrea Agnelli, che è appena arrivato alla Juve. Enzo, però una società ha anche diritto di dire un giocatore a questa età, insomma, è meglio che smetta, non so trovare delle parole più dolci. Insomma, la società penso abbia il diritto di scegliere quale può essere il suo futuro in un momento di ricostruzione. Detto questo, io sono d'accordo sulla parte, al di là dei toni estremi di Enzo, sono d'accordo sul fatto che di domandarmi insieme a lui perché non sia stata fatta una cosa un po' più studiata, un po' più preparata. Sarebbe stato più comodo, più utile, più facile per tutti fare un comunicato insieme e decidere. Una conferenza stampa. Io torno però all'idea che secondo me una società non solo ha il diritto, ma il dovere di fare delle scelte. E se queste scelte dovessero diventare quelle di dover rinunciare, di voler rinunciare a un grande campione che ha avuto un grandissimo passato, ma che adesso si ritiene non avere un grande futuro, è una scelta che deve poter fare, prende tutte le responsabilità del fatto che è un grande giocatore come Del Piero. C'è chi scrive: si sente radiofonicamente che state mangiando, io non l'ho mai nascosto, eh. Mangio la torta di Marta Cagnone ed è buonissima. Umberto, provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno, mi sentite? Sì, che la sentiamo bene. Perfetto. Salve Saggio Zorzi, scrive un ascoltatore, poi lo leggo. Riconosco alla Juventus il diritto di poter fare quello che vuole. Credo però anche che ancora una volta il giovane Agnelli abbia vinto il premio dell'inopportunità. Non so se vi ricordate quando scese in campo ai tempi all'inizio di Calciopoli tenendo sotto braccio Moggi e Giraudo. Fu molto inopportuno e la storia gli ha confermato. Poi si può dire tutto quello che vuole, lui, quello che si vuole, la sua battaglia, lui sta continuando a farla per quei famosi scudetti e così via, ma fu molto inopportuno. E credo che questa decisione o è stata inopportuna, sicuramente è stata nei modi, forse anche nella sostanza, salvo che con questa decisione Agnelli abbia voluto aiutare qualcun altro a togliere delle castagne dal fuoco. E in che senso? Qualcun altro, intendo Conte. Abbia voluto dare una mano a Conte. Del Piero spiazzato. Che voleva avere? Del Piero completamente spiazzato. Ma io credo che a questo che... punto. Sì. Cioè, lei dice disinnescare. L'obiettivo poteva essere quello di disinnescare Del Piero, di dare una mano a Conte nel dire: guarda, che non. Però attenzione perché. Il futuro sarà così. Per quel che si è visto di Del Piero in questi giorni, lui ha un'opportunità straordinaria di giocare strabenissimo o provarci almeno da qui a fine campionato. Per poter dire, liberato da ogni responsabilità, avete visto a chi avete rinunciato? E quindi questo potrebbe diventare anche un'opportunità in più anche per Conte, che può farlo, lo farà giocare sicuramente. L'idea di avere... Ma potrebbe, non so chi si ricorda di voi, il famoso gol di Altafini, entrato a 10 minuti dalla fine, si fece tutto il campo. Io me lo ricordo, e se lo facesse ancora Del Piero, probabilmente se lo ricorderà mio figlio tra 30 anni. Sarebbe un grosso successo per Del Piero, sarebbe il confermare qualche limite manageriale da parte del giovane Agnelli. Grazie. Grazie a lei, non so se limite manageriale oppure, ed è la domanda che continuo a farmi senza risposta, perché la risposta ovviamente è solo nella testa di chi ha fatto queste dichiarazioni, se c'è stato un secondo fine. Io sul secondo fine, né sul secondo fine, né sull'eventuale inopportunità di Andrea Agnelli, non ho seguito così attentamente tutti i suoi passaggi da poter avere molte informazioni, ma l'idea è, o diamo per scontato quindi, che una bandiera non può essere in nessun modo toccata, mai e in nessun caso, e non è questa la mia posizione, oppure nel momento in cui si prende una decisione è inevitabile andare incontro a un po' di rischi. Per esempio il fatto che Del Piero adesso ha, ti ripeto, questa occasione da qui a fine campionato di giocare con una motivazione triplicata per dimostrare, per esempio, che hanno sbagliato a non rinnovargli il contratto. Se questo serve a far vincere la Juve, in realtà sono in tanti a essere felici, poi il prossimo anno si vedrà, magari Del Piero continua a giocare o magari farà una scelta diversa. Un sacco di messaggi, tra l'altro, oltre che di ascoltatori, 800 24 00 24, numero verde. A me che ho fatto il militare hanno insegnato che quando si ha mai in una bandiera si sta in silenzio e si saluta rispettosamente, la chiacchiera non servono a nulla, Maurizio. Oppure un altro ascoltatore da Milano: ma non è che la nostra splendida dirigenza rossonera si sia comportata meglio quando Maldini lasciò il calcio e venne indegnamente contestato dalla curva? Nessuna difesa purtroppo da parte della società. Poi parliamo anche di Totti, eh? Comunque restiamo in tema Del Piero con Giovanni dalla provincia di Pisa, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Complimenti per la trasmissione. Io vedevo questa situazione da più punti di vista, principalmente a me non mi ha sorpreso più di tanto, dopotutto è una dichiarazione che è stata fatta a un'assemblea degli azionisti straordinaria per una ricapitalizzazione notevole di, se non sbaglio, di 120 milioni di euro, per un passivo di bilancio spaventoso. non dimentichiamo che Del Piero è uno della vecchia guardia, uno dei pochi rimasti a percepire dei stipendi enormi nelle Juventus. No, no, no, Del Piero non... no, enorme no. Del Piero no, guarda... forse quest'anno certo, però per fare chiarezza, non è una questione economica. Perché Agnelli che dice contratto in bianco non è una questione, no, perché Del Piero guadagna un milione l'anno, ma perché poteva anche scrivere un euro su quel contratto, non è un problema di soldi per Del Piero. I problemi della Juventus hanno altri nomi e cognomi, non dimentichiamo che la Juventus sborsa 20 milioni di euro l'anno totali per tre giocatori che non usa mai, che sono fuori rosa. E ne cito solo tre che sono i tre attaccanti, sono Amauri, sono Iaquinta, sono Toni. Insomma, per questi tre giocatori costano una montagna di quattrini alla Juventus. Per Del Piero non è una questione economica, quindi non è questo il punto, cioè non è il punto della ricapitalizzazione dei soldi, non è una questione di soldi, questo è evidente. No, io volevo arrivare lì proprio per quello, perché potrebbe essere anche un segnale agli azionisti, logicamente noi ai piccoli azionisti, ma colui poi sostanzialmente la società che ha finanziato la ricapitalizzazione, per dire attenzione, stiamo mettendo tutto in ordine. Sì. In primis Del Piero, poiché ahimè io sono uno juventino a 35 anni, sono nato con Platini, diciamo le prime partite che ho visto Baggio, poi è arrivato Del Piero e ci ha portato fino qua, però non credo nemmeno che sia un ammainare la bandiera. La bandiera sarà ammainata a giugno, quindi dobbiamo ancora vedere che cosa succederà. Sì. E poi chi lo sa, magari questa ancora non è la fine sua, non tanto come calciatore, però all'interno della Juventus. Quindi sì, probabilmente proclami di altro tipo, proclami troppo pomposi, eccetera, eccetera, non sarebbero stati opportuni. Sì. Io credo che c'era qualcosa da dire in questa riunione legato specialmente a Del Piero, perché sarà l'esempio della conduzione che vogliono tenere Juventus e quindi probabilmente trovare il modo a gennaio di liberarsi di una serie di giocatori quali Amauri, quali un sacco di giocatori che hanno drenato molti soldi alla Juventus, cosa che Del Piero non ha fatto. Ringrazio Giovanni, provincia di Pisa. Torniamo io e Andrea Zorzi, 800 24 00 24, per parlare con noi nel basket e nel baseball americano. Esistono le bandiere, domanda un ascoltatore, e se sì, come vengono ammainate in un paese che fa della sportività un valore? Ma tu ti sei mai sentito, Andrea, una bandiera? E quando hai smesso di giocare? Un pochino a Parma, ma ero molto giovane. Sì. Poi me ne sono andato, quindi a Milano, Treviso, Macerata, non sono considerato un giocatore simbolo, strettamente legato. Ho avuto dei discreti rapporti con le mie squadre, ho fatto un po' di fatica a Treviso, forse Macerata è la città con la quale era più semplice, perché ero a fine carriera, era una società piccolina che è cresciuta insieme anche a noi. No, bandiera no, bandiera direi di no. Quando hai capito che era il momento di smettere? Forse te l'ho raccontato. Sì. È stato il 98, avevo fatto un campionato il giorno d'andata giocando veramente malissimo, mi vergognavo di come stavo giocando e mi seccava moltissimo l'idea di non giocare come avrei voluto. A dicembre mi sono svegliato pensando che mancavano 5 mesi alla fine del campionato e ho detto: guarda, nei prossimi 5 mesi cascasse il mondo, io voglio dimostrare a me e agli altri che sono un grande giocatore di pallavolo. Devo restare 20 ore al giorno in palestra? Ci rimango. Questo porre un limite alla mia carriera, mi rimangono 5 mesi per mostrare. Ho deciso di smettere. Poi ho fatto un po' di fatica quando alla fine campionato, giocando tra l'altro molto meglio, le prestazioni sono aumentate moltissimo, il presidente Giulianelli mi disse: ma senti, visto che comunque giochi ancora bene, perché non resti con noi ancora un anno, facendo anche un'offerta economica molto interessante? E a quel punto io vacillai un pochettino, ma dissi: occhio Zorro, perché se gli ultimi 6 mesi hai giocato bene, perché ti sei inventato i fantasmi, ti sei messo un limite, come ricominci il prossimo anno? Sì, ripartiamo, che dobbiamo inventarci chissà quali strane. Sì. E quindi ho detto no. Dimmi forse un'altra cosa, poi parliamo un attimo di rugby, perché domani c'è la finale mondiale. Un grande campione può dire: va bene, adesso sono stato un grande campione, adesso faccio il sesto uomo, faccio il cambio, faccio il giocatore tattico, faccio quello che fa gruppo, faccio... Cioè, nella testa di un grande campione riesci a reinventarti gregario, tra virgolette? Dunque, è abbastanza complicato. Io l'ho visto nella pallavolo, che è lo sport che conosco meglio, solo in Marco Bracci. Marco Bracci è stato il simbolo di Parma, il simbolo di Modena, dato poi a Macerata, quando era già un po' più avanti con gli anni, giocava poche partite, però per Marco la pallavolo era rimasta l'attività a cui teneva di più e quindi pur giocando poco non ha mai fatto ombra negli altri. Ho altre esperienze, io non ho provato questa esperienza perché pensavo di essere veramente incapace di gestire questo calo fisico e tecnico e quindi di diventare più un ingombro che un aiuto. Lorenzo Bernardi ha fatto fatica anche lui nella fase finale perché restava un giocatore che aveva un grandissimo peso, ma non potendo in qualche modo giocare così bene come ci si aspettava da lui e come lui voleva giocare, talvolta il suo peso era superiore al vantaggio che portava alla squadra. Quindi un grande grande campione, insomma, fa fatica a recitare un ruolo di secondo piano e comunicare il piacere di dare solo la mano agli altri. Questa è la mia personale opinione perché io la penso così. Poi ci sono alcuni esempi invece di atleti che continuano a giocare, che cambiano di ruolo e rimangono positivi per il gruppo. Però attenzione che essere positivi per il gruppo significa avere la capacità di mettersi in secondo piano. Sì. Domani mattina alle 10 italiane, tanti campionissimi ancora con tanta carriera ancora davanti saranno in campo a giocarsi la finale dei mondiali di rugby in Nuova Zelanda, All Blacks contro Francia. Io ho già dichiarato molte volte, certo non faccio marcia indietro, il mio tifo per i Galletti che continuerà fino al termine della partita di domani. Ciao Giacomo Bagnasco. Ciao Carlo, per, ciao. Per chi fa il tifo domani? Non per sostenere l'altra campana a tutti i costi, ma io penso che in ogni caso oggettivamente gli All Blacks meritino di più questo. Sicuro, ma io sto parlando di tifo, sto parlando di tifo, sono d'accordo con te perché gli All Blacks, tu mi insegni, hanno fatto percorso netto fin qui, hanno dominato questi mondiali, la Francia ha fatto un po' di fatica, però insomma io parlo di cuore, tu per chi tifi domani? No, allora anche come cuore ti dirò che All Blacks, la maggior ragione, essendo stato in Nuova Zelanda, forse mi sono lasciato anche abbastanza contagiare. Mi dispiacerebbe pensare a quello stadio da 4 milioni di persone, come l'hanno detto gli organizzatori, che diventa un mortorio. In ogni caso è vero che gli All Blacks sono favoritissimi, è vero che la Francia è una squadra capace di tutto, basta ricordare i precedenti delle due squadre, l'unico in finale nell'87 con la vittoria degli All Blacks, che da allora non hanno più vinto il mondiale. E poi però nel 99, nel 2007, All Blacks feriti a morte, umiliati dai francesi, prima in semifinale e poi invece ai quarti di finale. Quindi diciamo che la squadra di casa sicuramente parte avvertita, non potrà sicuramente prendere neanche a livello inconscio sotto gamba questa squadra francese, che in una giornata di grazia è tuttora capace di tutto. E non c'è due, se magari non c'è due senza tre, tutte queste cose qui, insomma. Andrea Zorzi, perché fai il tifo? Io penso che i neozelandesi temano i francesi forse più di ogni altra squadra. Quando li hanno affrontati nella fase a gironi si sono indispettiti per le scelte dell'allenatore, pensavano che ci fosse sotto qualche tranello anche nella scelta di Parra apertura, poi in realtà Parra è stato il mediano d'apertura da lì alla fine del mondiale. Sì, sì. Andrea, per chi fa il tifo domani? Dunque, mi piace di più il gioco dei neozelandesi, su questo non c'è dubbio, però poi tifo sempre per i più deboli e quindi tifo per la Francia e poi sarebbe, abbiamo fatto a volte qualche ricerca sui momenti più tragici tra parentesi dello sport, si parlava della sconfitta del mondiale di calcio del Brasile, si parlava di Wembley. Se questo stadio da 4 milioni di posti, bella però questa immagine, non è bellissima, molto bella. Una domanda velocissima legata anche a Del Piero. Allora, mediaticamente Chabal era un po' il grande giocatore della Francia e non è lì. Come hanno reagito la stampa, i tifosi e la squadra? Ma io credo che Chabal oggettivamente fosse un giocatore un po' in declino, lo ha dimostrato anche nella partita giocata a marzo con l'Italia, clamorosamente vinta dagli azzurri. Sotto questo punto di vista, ecco, se la Francia diventasse campione del mondo, noi potremmo dire di aver battuto i campioni del mondo nello stesso anno in cui hanno conquistato il titolo. Lo segnalo a Carlo. Avvocato difensore, avvocato difensore, questo non la prendiamo. In ogni caso, no, a parte questo, io credo che Chabal fosse un giocatore un po' in declino e quindi ci sono state anche altre scelte probabilmente dolorose. Non c'è più Josion ad esempio nella Francia, però credo che tutto sommato non sia stato un punto di discussione. Forse lo è stato di più in Australia, soprattutto visti i risultati, la rinuncia a Guiteau, l'insistenza su Quade Cooper, che è stato un mediano di apertura mediocre per tutto il torneo. In ogni caso adesso si pensa a questa partita e la Nuova Zelanda aspira a un titolo che le sfugge da 24 anni. Ricordiamo che in tutto ha perso 5 partite nella storia dei suoi mondiali, in 7 mondiali a cui ha partecipato. Penso. 2 volte ha perso dall'Australia, 1 volta dal Sudafrica, e l'unica squadra europea che l'ha battuta 2 volte è stata proprio la Francia. E ti torno a dire, non c'è 2 senza 3, però pensa alla pressione che avranno addosso domani gli australiani, perché ultima questo cosa, squadro, dimmi Giacomo. Ultima cosa, Carlo, tanto per magari tirarla un po' addosso che ti può far piacere. Dunque, la Nuova Zelanda è arrivata a 27 partite consecutive vinte all'Eden Park di Auckland, dove tra l'altro ha vinto il suo primo mondiale. Ultima sconfitta all'Eden Park di Auckland 17 anni fa, nel 1994, partita persa 23-20 da chi? Francia. Dalla Francia, che ha segnato una meta straordinaria che potete anche vedere sul sito del Sole 24 Ore, che vi invito ad andare a vedere, anche perché quest'anno in occasione dei mondiali ha parlato veramente tanto tanto di rugby. Grazie Giacomo, grazie a voi. Buona finale, ci sentiamo domani, buon divertimento. Grazie Andrea. Però ci metti. Riguardo alla pressione, porca miseria, stadio da 4 milioni di persone, 27 partite vinte, ne hai perse 2, hai perso 5 partite in però senti questa, Carlo, la pressione è inversamente proporzionale alla vicinanza della finale, quindi il momento peggiore è il quarto di finale. Sì. In assoluto. Potrebbe essere facile perché giochi contro una squadra non troppo forte, ma se ti sbagli un quarto di finale, sì, non hai fallito, sei proprio. Sì, sì. Poi c'è la semifinale, perché lì la squadra è più forte, ovviamente, e non andare in finale, insomma, mette tensione, cioè hai molto da perdere. Poi la finale è chiaro che carica di pressioni, però lì sei arrivato. Però quindi, giochi in casa, Andrea, giochi in casa in un paese in cui il rugby è una religione, giochi in casa in un paese che ha vinto una sola volta. Voi pensatela sempre come un amplificatore, ricordi, è sempre la pressione è un amplificatore. Se le cose vanno bene, non c'è nulla di più bello che giocare in casa, così. Se le cose iniziano a mettersi un po' nel verso storto, può diventare un problema. È chiaro che in questo momento non c'è la finale più complicata per gli All Blacks, perché a quanto pare la Francia, in un modo o nell'altro, è un po' quella squadra che qualche fastidio glielo dà. E tu come potresti resistere a questo ipotetico momento tragico da poter poi commentare? No, irresistibile, te lo giuro. C'è un altro argomentino non inedito peraltro nelle nostre chiacchierate del sabato con Andrea Zorzi, che io avrei voglia, da malizioso se vuoi, quali sono, di toccare. Lo facciamo prendendola alla larga, alla larga, da questa scheda di Cristiano Bartelloni. Logo al rogo, motto che sintetizza perfettamente la condizione dell'immagine scelta per i Giochi Olimpici di Londra 2012. Mai nella storia a 5 cerchi l'emblema aveva scatenato un coro tanto compatto di critiche. La descrizione recita: rappresentazione in stile graffiti del numero 2012. Alla realtà dei fatti, un incomprensibile insieme di forme. Ripercorriamo insieme la travagliata vicenda. È stato disegnato dalla Wolf Hollins e svelato il 4 giugno del 2007. Il costo, non proprio concorrenziale, è di 600.000 euro. Studi sanitari sull'animazione portarono a numerosi casi di attacchi epilettici e l'ex sindaco di Londra, Ken Livingstone, commentò così la scoperta. Se assumi qualcuno per disegnare una macchina e questa finisce per uccidere, non puoi essere soddisfatto. Ed è stato solo un inizio. In pochi mesi il logo è stato accostato a un disegno di un macaco, a una svastica distorta e addirittura al personaggio dei cartoon Lisa Simpson in atteggiamenti libertini. Nel febbraio 2011 l'Iran si è appellato ufficialmente al CIO per la sostituzione dell'immagine, in quanto ricorderebbe la scritta Sion e di conseguenza Israele. Il comitato ha respinto la richiesta e l'Iran ha deciso di partecipare comunque ai giochi. Altri, con tipica ironia anglosassone, hanno suggerito che il logo è perfetto perché figlio legittimo del tradizionale cattivo gusto britannico. Ma queste sono solo male lingue. Beh, bellissima, eh? Sai che ascoltandola, riascoltandola, mi è venuto in mente, il sindaco diceva, se fai una macchina che non va bene, hai fatto male il tuo lavoro, te la ricordi l'Arna? credo sia stato uno dei punti più incredibili di macchine orrende. Sì, sì. No, beh, però è anche Alfa, curioso il fatto. Alfa Nissan, vero? Alfa Nissan, esatto. Alfa Romeo Nissan, Arna. No, è curioso anche il fatto come tu in un logo possa leggere un miliardo di cose. Dalla scritta Sion alla, come si chiama? A quella... La svastica. Alla svastica. A Lisa Simpson, gli atteggiamenti libertini poi. Meraviglioso. Prima di Michele da Brindisi e Mario da Ferrara, con cui chiuderemo il programma. Poi domani abbiamo tutto il tempo che volete per tornare su tutti gli argomenti, compreso Del Piero, dalle 16.30 fino alle 19. Allora siamo lì, no, simboli, parliamo di Olimpiadi, bandiere. E simboli e le bandiere che non esistono più e quelle che bisogna portare in giro su quella pista. Allora, se insisti, io la porto, vengo lì all'inizio della pista, fai il giro e poi ti portano via in limousine. Se no domani non posso nuotare. L'hai presa bene, eh. L'ultima di Federica, la nostra signora delle piscine, che aggiunta non richiesta, ha detto: vabbè, se proprio vogliono, vado lì, faccio il giro, non mi costringano a fare le prove, per carità, a fare tutta la cerimonia non se ne parla nemmeno, però se proprio vi vogliono, io vado lì e porto il vessillo per quel giro. Tutti gli altri atleti applaudono. No, ci mancherebbe altro. Facciamo questo, sto in piedi, io sto in piedi e gli tengo la bandiera così lei può riposarsi. Poi la porta e se è stanca anche metà giro possiamo eventualmente sostituirla. No, è vero che era sotto pressione, perché la stavano rincorrendo da giorni, mi pare, le Iene, per fargli cambiare idea. Bastava dire sì, va bene, la porto, punto. Senza l'aggiunta finale. Dall'inizio alla fine della pista. Zorzi, potevate anche vincere contro l'Olanda. Eravate nettamente più forti. La più grande delusione sportiva della mia vita. Della mia no, eh. Più deluso che di quando vidi Baggio tirare alto il rigore. Grazie comunque per tutti gli altri successi. Grazie. Lì potevate vincere, che era delusione. Peccato non si fermi l'ascoltatore. Però mandavamo anche un autografo di Andrea Zorzi con dedica. Michele da Brindisi, buonasera. Sì, buonasera, volevo tornare sull'argomento del Piero. Prego. Secondo me è stato drammatizzato in maniera eccessiva. Premetto, sono tifoso della Juve, grande ammiratore del giocatore, però ho sentito le parole di Agnelli, non mi pare vi fosse l'intenzione di mortificare il giocatore o di far arrabbiare i tifosi. È mancata un po' di enfasi, se mi consentite, nelle sue parole, ma tra l'altro non era una conferenza stampa nella quale Michele, di un'epoca. Va bene, l'enfasi poteva anche dire il più grande giocatore ogni epoca mondiale, totale, globale, ci inchiniamo tutti, metterci tutte le enfasi che vuole, però il senso rimaneva quello: Del Piero a fine anno noi non lo confermiamo, perché questo era il senso, ed è un senso molto chiaro, netto e preciso. Non concordato, evidentemente, perché il silenzio di Del Piero vale più di mille parole dopo questo annuncio, e dunque l'enfasi va bene. Ascoltate, critichiamo quando non dicono le cose chiare. Quando se le dicono chiare e non va bene lo stesso. Dire un po' meno chiare e pompare un po' di più. Devo parlare con Mario da Ferrara, perché ho ancora un minuto. Mario, buonasera. Buonasera a lei. Dica. Io volevo vederla da un altro punto di vista, la storia di Del Piero, e cioè la volevo vedere da un punto di vista della dimensione di Agnelli, che mi sembra praticamente molto nervoso, agitato, insicuro, perché non c'è in discussione la cosa che diceva Zorzi, cioè che una società ha il diritto, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, ma la domanda è perché farlo, dirlo senza coinvolgere Del Piero? Questo è il domandone. Cioè, questo è il punto. Questo è il punto, sì, sono d'accordo sul fatto che questo sia il punto. Dopodiché leggo che ha amarrato 1.300.000 euro, sì. No? Che non ho mai capito perché si continua a considerarlo esperto di calcio. Però queste sono altre storie, sono scelte societarie. Senza che la mia difendi. Sì, però è talmente vistoso. Non ha neanche fatto bene in questi anni Marotta, voler essere onesti. Però senza che la mia diventi una difesa da avvocato difensore, per fare un comunicato congiunto bisogna essere in due, mettersi d'accordo, e non sappiamo se sono riusciti a farlo o se non ha voluto farlo. Esatto. Però bisogna essere in due. Esatto, esatto. Tu parti. Io parto lunedì. E noi ci sentiamo sabato al telefono. Ci mancherebbe. Ben ci troviamo quando, ci troviamo qui? Sabato, sì, sì. Fine novembre. Ti racconto dove sono. Eh sì, ci racconto. Come al solito mi lasci qui. Tutte le volte parti e mi lasci qui. Vabbè. Tanto con l'Olanda non hai vinto. Ciao, grazie ad Andrea Zorzi, Giorgio De Luca in redazione, Paolo Corleoni in regia. Ci sentiamo domani alle 4:30.